Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata come sempre il venerdì che ospita la poco invidiabile classifica. Devo dire che con quello che sta capitando tra ANAS, Palermo ieri, oggi la società Euro S.p.A. Arrestato per corruzione dirigente, la nostra rubrica diciamo viene molto inflazionata. E fra un po' la sospendiamo perché la cronaca sorpassa anche il lavoro, diciamo, redazionale di ricerca. Però oggi abbiamo le nostre 5 notizie della classifica. Parleremo anche dei dati usciti oggi su disoccupazione, occupazione e inflazione, che in sostanza chiudono una settimana di dati, mi riferisco chiaramente alla fiducia dei consumatori e delle imprese, positivi in una situazione ancora molto molto complicata e molto negativa. Perché lo dico? Perché oggi la disoccupazione ha segnato un calo a settembre, l'11,8% è la soglia dei disoccupati in questo paese, siamo ai minimi dal 2013. Ci sono nell'ultimo anno 264.000 persone in meno che cercano lavoro. È scesa leggermente anche la disoccupazione giovanile, dal 40,7% di agosto al 40,5% di settembre, leggermente, ripeto, però da questo punto di vista il dato è arrivato anche sull'inflazione, in cui pur a fronte di un lieve rialzo l'inflazione continua a non esserci, siamo allo 0,3% ad ottobre, i prezzi al consumo rispetto a ottobre di un anno fa, con un lieve rialzo principalmente per gli alimentari non lavorati, più 4,2%, servizi ricreativi, culturali e cura della persona. Faremo un commento della settimana, come spesso facciamo venerdì, con un ospite che è tornato a trovarci, e mi riferisco all'uccellaccio Giulio Sapelli, storico dell'economia alla Statale di Milano, per tenere assieme i dati italiani ma anche quello a cui stiamo assistendo sul fronte internazionale. È stata questa la settimana anche dell'atteso intervento del numero uno della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, Janet Yellen, la quale ha fatto capire che l'America si appresta a rialzare i tassi di interesse perché l'economia corre, e corre anche troppo, potremmo aggiungere noi. Uno dice non è mai troppo per questi tassi che sono ai minimi storici dal dicembre del 2008. Questo dicevo per quello che riguarda la puntata. Per quello che riguarda la borsa invece è chiaro che anche oggi il tema si chiama Telecom. Allora, da un lato sono arrivate notizie dalla Francia, la notizia che sostanzialmente Xavier Niel è salito al 15,14% di Telecom Italia, era presente su tutti i siti francesi e i giornali francesi. La Vivendi invece ha più o meno il 20%. Secondo il giornale Le Figaro è improbabile che Xavier Niel e Bolloré, quindi chi è appena entrato quanto notizia e chi era l'azionista, insomma, di riferimento di Telecom Italia, e mi riferisco appunto a Bolloré, al gruppo Vivendi, si possono alleare. Ora l'industriale bretone potrebbe chiedere presenza nel consiglio di amministrazione, così dice appunto Le Figaro. Si autoinvita nei business italiani di Vincent Bolloré. È improbabile che i due uniscano le forze. Bolloré è stato preso in contropiede, credeva di essere solo a correre per il controllo di Telecom Italia. Quello che è certo è che Telecom Italia la stanno non aggredendo, perché sarebbe sbagliato, stanno puntando su Telecom Italia i francesi, che poi si chiamino Bolloré o Javier Niel poco cambia. Il secondo aspetto, che queste sono analisi del Figaro, altri fanno notare che invece qualche rapporto i due ce l'hanno, e non è da escludersi che potrebbero unire le forze. È chiaro che se la Consob, come ha chiarito ieri, dovesse capire che c'è un concerto, come si dice in gergo, quindi un accordo tra i due soci, il concerto vale come se fosse un unico socio, cioè è l'obbligo a quel punto di lanciare un'OPA, un'offerta pubblica di acquisto sulle altre azioni. Perché anche se sono due soggetti distinti, se la Consob stabilisce che agiscono di concerto, è come se fossero un soggetto solo. E sopra il 25% in Telecom Italia sei obbligato a lanciare l'offerta pubblica a tutti gli altri azionisti. Il titolo oggi è più tranquillo, guadagna l'1%, ma faccio notare che ha guadagnato il 20% sostanzialmente dal 21 ottobre, da quando è emerso che c'era un ingresso di Javier Niel in Telecom, ha guadagnato il 20% Telecom Italia. Poi magari la prossima settimana affronteremo anche il tema della politica italiana e del ruolo del governo. Perché? Perché non è un mistero per nessuno che fino all'altro ieri lo stesso Premier Matteo Renzi avesse individuato in Telecom Italia, in quanto ex monopolista, il soggetto principale per realizzare l'operazione di digitalizzazione del paese, la banda larga e quant'altro, con anche scambio di vedute con Telecom Italia. Il problema è che se Telecom poi va e diventa controllata dai francesi, diventa anche un po' più difficile chiedere a un soggetto privato con un azionariato sostanzialmente all'estero di operare come se fosse ancora pubblico o come se ci fosse ancora una golden share. Ne parleremo comunque nei mercati che oggi sono invariati sia su Milano che su Parigi che su Francoforte. Si va dallo meno 0,1 di Milano e di Parigi al più 0,1 di Francoforte, meno 0,70 a Londra, invariata anche l'America sul Dow Jones, euro a quota 1,1029. Il numero per i vostri messaggi è 349-238-6666 e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo come sempre dall'economia internazionale. Per quello che riguarda la Russia, la banca centrale ha lasciato invariato il tasso di interesse, il tasso di riferimento all'11%. Questo a causa del rischio di inflazione. Il 3 agosto ricordo che la banca centrale russa portò il tasso dall'11,5% all'11% e a giugno era al 12,5%. In Svizzera invece la banca centrale svizzera ha segnato una perdita nei primi 9 mesi del 2015 di quasi 31 miliardi di euro, cioè un'intera più di una manovra finanziaria italiana, a causa dell'impatto sulle riserve della crescita della valuta. Praticamente hanno perso anche sulle riserve in oro, è in parte compensato da ricavi e dividendi, e comunque ricordo che negli ultimi 9 mesi il franco, a seguito della rimozione del tetto dell'oscillazione della valuta svizzera nei confronti di euro e dollaro, è salito del 10% rispetto all'euro e del 2% rispetto al dollaro. E per inciso oggi troviamo il rapporto euro franco svizzero a 1,087. Citavo l'inflazione italiana, oggi il dato riguarda anche l'inflazione dell'area euro, che non c'è, è zero sostanzialmente, 0%, era meno 0,1 nel mese di settembre. Crescono un po' gli alimentari, i servizi, l'energia, ma insomma non c'è inflazione, questo non è un bene, ricordiamolo sempre, a maggior ragione quando la Banca Centrale Europea sta inondando di liquidità l'area euro. Non è un bene perché vuol dire che tutta quest'acqua che dai al cavallo per bere, il cavallo non la sta bevendo, e quindi tutte queste liquidità che tu stai dando attraverso il quantitative easing, comprando titoli di Stato, resta in pancia poi alle banche, così come le banche non stanno utilizzando per girare l'economia i soldi messi a disposizione a tassi super agevolati dalla Banca Centrale Europea. E poi soprattutto l'inflazione a zero vuol dire che i consumi non stanno ripartendo in maniera tale da incidere sui prezzi. Vedo che qualcuno mi dice, ma come si fa a dimostrare un concerto? questo è, chiaramente un problema. Uno potrebbe far finta di, mi riferisco a Bolloré e a Neil, far finta di essere in disaccordo. Però insomma, quello che sappiamo è che, se, che l'OPA scatta anche se c'è un concerto, non solo se uno dei due ha il più del 25%. E poi la dichiarazione del ministro dell'economia Padoan, il quale ha detto i risultati recenti in termini di crescita della nostra economia stanno andando oltre le previsioni, l'occupazione è buona con contratti migliori, la ripresa dovuta alla domanda interna delle famiglie e delle imprese grazie al ritorno della fiducia. Poi però Padoan ha aggiunto, attenzione, il bonus assunzioni verrà prorogato anche quest'anno, vale la metà se abbiamo ben visto le stime in legge di stabilità, cioè invece che 8.000, fino a 8.000 euro al mese, buonanotte, magari fino a 8.000 euro all'anno per ogni singolo per ogni singola persona assunta a tempo indeterminato, perché tanto valgono gli sgravi contributivi per le imprese, si passerà a un massimo di 4.000, intorno ai 4.000 euro all'anno. Però Padoan ha avvertito, attenzione, che il bonus assunzioni non potrà durare in eterno. Su questi dati, su questa dichiarazione si concentrano i 100 secondi di Radio 24. Oggi la firma è del vice direttore Alberto Rioli, chiaramente vanno a commentare anche i dati sulla disoccupazione. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. È un dato a due facce quello sul mercato del lavoro fotografato dall'Istat per settembre. Il tasso di disoccupazione cala all'11,8%, il livello più basso da gennaio 2013. È sceso dello 0,1% e anche a luglio l'ha calato di mezzo punto, quindi questo è positivo. L'altra faccia di questi numeri però è il dato sull'occupazione, perché la disoccupazione è calata non perché si sono creati più posti di lavoro, ma perché è di nuovo cresciuto il gruppo degli inattivi, di quanti cioè non cercano nemmeno più un posto di lavoro perché sono scoraggiati. Ci sono in un mese 36.000 disoccupati in meno, ma anche 35.000 occupati in meno e purtroppo 53.000 inattivi in più. Sono diminuiti 26.000 occupati dipendenti e 10.000 nel lavoro indipendente, e i nuovi assunti sono per due terzi lavoratori con contratti a termine. Anche la disoccupazione giovanile è calata dello 0,2% e si è portata al 40,5%, un tasso, sentite, che è sempre alto e fuori dagli standard rispetto all'Europa. Su base annua, tuttavia, il dato generale resta con un segno positivo: l'occupazione cresce dello 0,9%, più 192.000 persone occupate, e il tasso di occupazione di 0,6 punti. Qual è la conclusione da trarre? In sostanza, l'estate è finita anche per il mercato del lavoro e il boom agostano si è concluso con la cessazione dei contratti a tempo legati soprattutto a lavori stagionali estivi. A ben guardare ci troviamo di fronte a movimenti sul mercato del lavoro ancora molto piccoli e non lineari. La ripresa è in atto e il PIL si appresta a darci a fine anno una sorpresa positiva, ma la traduzione di questo rilancio fatica a trasmettersi al lavoro. Servirà tempo. Tocca alle scelte di politica economica a far sì che quel tempo sia più breve possibile. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, veniamo a quelle che sono notizie di cronaca, anche se in un paese normale sarebbero parte della nostra classifica. Comunque, allora, arrestato a mafia, arrestato a Roma, questo lapsus comunque la dice lunga sulla mia stanchezza venerdì, ma anche sulle vicende che riguardano Roma. Arrestato a Roma per corruzione il dirigente di Eur SPA, intercettato al telefono con il mitico, si fa per dire, Buzzi, diceva sì, è fatta, compra subito. Lui si chiama sostanzialmente la dirigente del settore verde di Eur SPA, Clelia Logorelli, finita ai domiciliari per corruzione. In concorso tra gli altri con Salvatore Buzzi avrebbe accettato uno stipendio. Qui ormai siamo allo strutturare la corruzione attraverso gli stipendi, fra un po' inizieranno anche a avere le detrazioni fiscali, non so. 2.500 euro in cambio di atti contrari ai doveri d'ufficio. Il denaro lo avrebbe ricevuto a più riprese da Buzzi, amministratore delle cooperative, ricordo, riconducibili a Massimo Carminati, detto Ercecato. E va bene, in una delle intercettazioni del 12 dicembre 2013 lo stesso Buzzi dice della Logorelli che si è fatta comprare subito. Quindi adesso, può essere che stia millantando, però la frase non ha bisogno di grandi traduzioni. E poi oggi il ministro Del Rio è intervenuto sulla corruzione, ha detto vanno riscritte le regole sugli appalti. Nel frattempo, con 37 voti a favore, qui entriamo proprio in zona classifica, in Sicilia 9 astenuti, nessun voto contrario, l'assemblea regionale ha approvato la norma che stanzia 16 milioni di euro per i forestali, quelli regionali. I fondi recuperati con questa norma, 10 vengono presi, 10 milioni dal fondo di riserva per la sanità, 6 milioni dai capitoli di bilancio dell'assessorato all'agricoltura, serviranno a far ripartire l'attività del bacino composto da 24.000 persone. Lo ripetiamo fino allo sfinimento, il doppio dei forestali che ha il Canada, ok? Si attende però una delibera del CIPE per sbloccare le ulteriori somme del fondo di coesione sociale per garantire le giornate lavorative fino alla fine dell'anno. Ora però va bene salvaguardare, ci mancherebbe, devono pagare gli stipendi, ma ci si può anche mettere mano al numero di forestali in Sicilia? Ripeto, non è il corpo forestale dello Stato, sono i regionali. Il capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana, Marco Falcone, ha fatto notare che i lavori forestali in Sicilia, ma quante foreste ha la Sicilia, costano ogni giorno più di 1.400.000 euro. Questo chiaramente molto per pagare i dipendenti. I lavori dell'antincendio 380.000 euro, cioè 1.800.000 euro al giorno. Ora è vero che gli incendi sono un problema, no, ma io la Sicilia un po' l'ho girata, hai dei bellissimi parchi, ci troviamo le Ebrodi, le Madonie, ma insomma, ma tutte ste foreste, sti laghi, non li abbiamo visti, ci saranno sfuggiti. E quindi fa notare Marco Falcone che gli 11.500.000 euro stanziati oggi, che sembra una cifra enorme per pagare una regione i forestali, serviranno a mantenere i forestali per 6 giornate lavorative, cioè se va tutto bene arriviamo a fare una settimana e mezza. Questo è il costo, 1.800.000 euro tra lavoratori dei forestali e lavoratori dell'antincendio. E poi con una battuta ti chiedi anche, ma come fanno a lavorare quelli dell'antincendio se da sempre in Sicilia manca l'acqua? Non è che da sempre manchi l'acqua, lì c'è di mezzo la mafia, lo sappiamo, abbiamo fatto inchieste, le dighe preparate mai pronte, c'è il business dell'acqua che è uno dei business su cui da sempre lucra la mafia. E poi c'è la vicenda di Messina, allora è il 7° giorno senza acqua. Per questa sera è atteso l'arrivo di una nave cisterna, ma ragazzi, ma ci rendiamo conto, neanche fosse un'isola sperduta nel Mediterraneo, bloccata. I controlli della Guardia di Finanza, sta controllando se i commercianti non stiano facendo i furbi con i prezzi dell'acqua minerale. Stanno verificando anche le autorizzazioni sanitarie per le autocisterne. Il ministro della Difesa Roberto Pinotti in un tweet, basta questi tweet, ha detto: ho dato disposizione alle forze armate per intervenire a Messina e contribuire alla soluzione dell'emergenza idrica. Vabbè, che mandi le autocisterne, le autobotti, è che spari all'acqua. E poi posso dire una cosa, ma che basta questi tweet, alla prossima dichiarazione di guerra la faremo con un tweet, su Facebook, beh non lo so. E comunque il sindaco del capoluogo siciliano Renato Accorinti assicura che l'erogazione idrica dovrebbe ripartire gradualmente già da oggi. Alle 9 del mattino l'operazione è già stata finita ed è stata immessa l'acqua nella conduttura, il tempo di sono 70 chilometri, il tempo di riempire i serbatoi è un'operazione di qualche ora e i cittadini avranno l'acqua. Noi siamo parte lesa perché il dissesto idrogeologico ha fatto il danno alla conduttura, nel 2009 ha fatto il danno ai cittadini di Giampilieri, allora il problema è il dissesto idrogeologico. Qui dobbiamo cercare di lottare tutti insieme perché l'intera Sicilia è veramente fragile. La classifica della settimana. L'intervista chiaramente era con il nostro Simone Spezia durante Effetto Giorno, sì, vabbè, non era con Simone Spezia. E con chi era questa intervista lo scopriremo alla fine della classifica. Io ho riconosciuto la voce di Simone Spezia, evidentemente me lo sogno. Andiamo alla classifica della settimana, perché la vicenda siciliana, adesso il dissesto idrogeologico, sì, ho capito, però andiamo a vedere anche come mai tutta Messina, una città da 260.000 abitanti, aveva un'unica fonte e ha un'unica fonte di approvvigionamento idrico. È normale questo nel 2015? Non lo so. E perché il sindaco è parte lesa sempre dopo e mai prima, nel senso che non denuncia prima? Ma andiamo alla nostra classifica, partiamo da... Io sto già ridendo perché avrò difficoltà a leggere questa notizia, l'abbiamo messa al quinto posto, perché non è grave come danno economico, però la dice lunga anche sulla gestione delle nostre forze armate. Noi sappiamo che purtroppo le forze armate hanno ancora una marea di sprechi, li abbiamo raccontati, poi li ritirerò fuori magari in una puntata, però poi quando c'è da tagliare si taglia sempre sugli investimenti alla difesa, sugli investimenti, le missioni internazionali costano e quindi non si toccano alcuni privilegi. Anzi, ti chiedo ai miei assistenti di regia di andare a riprenderli, li abbiamo raccontati ancora un paio d'anni fa, i privilegi delle forze armate, dei soprattutto delle stellette, quindi da chi è generale di brigata in su, però poi si taglia su tutto il resto. Allora, sentite questa vicenda, vediamo se riesco a raccontarla in maniera seria. Allora, il capo di Stato Maggiore della Marina Militare va in visita a una caserma pugliese della Marina Militare. Contrariato dall'erba alta, dice: se non bastano i soldi per falciare i prati, potete comprare delle caprette. Detto, fatto. A luglio arrivano nella caserma pugliese, è la base degli aeromobili della Marina, cioè faccio notare che sono gli aerei che poi imbarchiamo sulla porta aerei Cavour, no? Gli Harrier, non è una base così inutile di secondo livello logistica, è la base della Marina di Grottaglie, vicino a Taranto. Arrivano due caprette. Ne arrivano due a Grottaglie e due nella base della Marina a Venezia. Certo che la selezione viene fatta accuratamente, nel senso che a Grottaglie scelgono caprette tibetane più piccole, mentre a Venezia scelgono caprette alpine. Non mi sono drogato né ho bevuto, è tutto vero. Allora, a questo punto il preposto alla salute sul lavoro dell'Istituto di Studi Militari Marittimi scrive una mail al comandante e ai colleghi, leggo testualmente, virgolette: rientrato dalla licenza ho appreso che in arsenale erano state destinate due capre e un montone, capirai, montone con due capre sta messo pure bene, come manutentori delle aree verdi. Ho subito pensato a uno scherzo, invece con mio stupore era proprio così. L'hanno capito subito i marinai, che invece non era uno scherzo, perché addestrati a fare altro si sono ritrovati a fare i pastori, con massimo rispetto per i pastori, ma se uno fa per esempio il radarista specializzato si è dovuto adeguare a seguire corsi da giardiniere, muratore e carpentiere. Molte caserme, non è solo il caso di Grottaglie e di Venezia, hanno rotto i contratti per risparmiare con le ditte di manutenzione e scaricano il lavoro sui militari di leva, no? È bello formare delle persone perché poi facciano appunto il giardiniere, il muratore e il carpentiere. E questo su base volontaria, ma sappiamo che nell'esercito e una marina la base volontaria è un principio astruso. Allora, i marinai però non sono alpini e le capre non sono tosaerba, fin qua ci arriviamo tutti. Cosa succede? Sporcano e in mancanza di recinzioni vanno un po' dove gli pare. Ma voi immaginate la base di Grottaglie, dove teniamo gli aeromobili della Marina, dopo la polemica ci sono voluti 20 anni perché la Marina si dotasse di aeromobili, i Sea Harrier, quelli a decollo verticale, per la Cavour, c'è l'ISIS, c'è la Libia, c'è tutto. Ma voglio dire, ma se l'ISIS vede una cosa del genere, ma ci pensa due volte a invadere l'Italia. Allora, era arrivata dai vertici, ma l'idea delle caprette si è rivelata un pasticcio. A Venezia ste cavolo di caprette delle Dolomiti si sono stancate presto dell'erba da prato e quindi hanno dovuto comprargli i marinai il mangime, perché sono anche caprette di cortina. Dove erano ste caprette? Un po' viziatelle. Allora, arrivata la pioggia, nessuno aveva pensato a costruire un riparo alle caprette. Poi salta fuori che una capra è gravida e io l'avevo detto che mettere due capre un montone qualche problema lo creava. Si lamenta, beh, è gravida, si lamenta e bisogna capire come mungerla. Tu ti immagini, ma io insomma, guarda che è serio, ma tu ti immagini un marinaio radarista specializzato a cui dicono devi mungere la capra? La capra è gravida e non mi chiedete di chi l'è gravidata. Andiamo avanti. Il preposto alla salute, quello di prima, chiede se le capre hanno cibo e acqua a sufficienza, se sono registrate all'ufficio sanitario, se hanno già ricevuto le opportune vaccinazioni e se fra gli ordini di servizio c'è anche quello di pascolare e spalare il letame. Lo chiede lui, dice, ma scusate, dobbiamo pascolare le capre e spalare il letame? Mentre ci prepariamo a invadere la Libia e a annichilire l'ISIS, scrive poi il preposto alla salute: oltre a preoccuparmi dei miei simili, mi stanno fortemente a cuore anche gli animali. È notizia di stamane che un capretto è stato partorito morto. La lettera rispettosa si conclude con la viva speranza che le caprette vadano presto a pascolare tutte assieme sulle vicine Dolomiti. Beh, potevano andare anche dall'altra parte, comunque. Oh, il comandante che cosa fa? Affibbia al preposto della salute 3 giorni di consegna di rigore, punizione severissima, con l'accusa di violazione delle funzioni attinenti al grado e perché il sottoposto, con dichiarazioni incomplete, avrebbe rivelato segreti militari. Ma qual è il segreto militare? Che abbiamo le capre che scagazzano in tutta la sede della Marina, che può essere un modo anche per un deterrente. A questo punto, se dobbiamo combattere l'ISIS, mettiamoci direttamente i maiali, che così come deterrente funzionano. Comunque, nella lettera di rapporto in cui condanna 3 giorni di consegna di rigore, il comandante ammette di sfuggita che comunque sono in corso le azioni per registrare gli animali. Faccio notare che poi c'è anche un dossier del movimento diritto dei militari, aspettiamo anche il dossier del movimento diritto degli animali. Sono esausto, meteo, pubblicità e poi le altre notizie meno facete, anche se questa la dice lunga, e più gravi per i conti pubblici. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. La classifica della settimana. Allora, non posso continuare sulle caprette usate dalla Marina Militare. Mi fa notare, alcuni ascoltatori fanno notare che il montone non è il maschio della capretta, della pecora. Ok, magari era un montone che di bocca buona, mettiamola così. Altri fanno notare che le caprette mangiano gli arbusti, non l'erba, ecco perché non hanno pulito i prati delle basi della Marina Militare. Benissimo, vedo tutti esperti oggi in caprette. Invece, giustamente, un ascoltatore dice: ma se la Sicilia ha 24.000 operai forestali della regione, ma perché non usa quelli intanto per sistemare il dissesto idrogeologico? Ma perché non sono lì per quello, sono lì come nella maggior parte come voto di scambio clientelare, dai, su, non giriamoci attorno. Ancora, devo andare rapido però sulla classifica, quindi vado al quarto posto, dove c'è il Comune di Pescara, che lancia una campagna. La settimana scorsa ha lanciato una conferenza stampa, una campagna contro chi inquina, una conferenza stampa importante, e ha detto: basta, perseguiremo tutti quelli che inquinano Pescara, a partire da chi inquina il fiume Pescara. Piccolo dettaglio, ci si è accorti adesso che uno dei probabili inquinatori del fiume Pescara è il Comune di Pescara stesso, quindi la campagna te la devi fare da solo contro di te, perché su 4 condotte fuori legge scoperte durante i lavori per convogliare le acque piovane al depuratore, ci si è accorti che una di queste 4 condotte fuori legge partiva dal Comune di Pescara e scaricava nel fiume di Pescara dal Comune. Quindi fai la campagna su te stesso, te la canti e te la suoni. Ha scaricato per anni, forse per decenni, nel corso d'acqua, e ecco perché parte la campagna. Però fanno notare al Comune di Pescara che il sottosuolo di Pescara rimane un mondo inesplorato dove si può trovare di tutto, magari anche il fantasma dell'opera, ma che non esiste una mappatura dei vari sottoservizi, perciò ogni impresa che svolge un lavoro di scavo del suolo rischia di incappare in condotte e tubature di qualsiasi tipo di cui si ignora l'esistenza. Ma è bellissimo, ma ci troveranno anche Jim Morrison, troveranno gente che forse Hitler era ancora vivo lì, ma stiamo scherzando? ammettete che non scherzo, ma cos'è il fantasma dell'opera, le catacombe, è una roba pazzesca. E comunque bravo il comune di Pescara che lancia una campagna e poi si accorge che è lui che scarica. Mi viene in mente come quello che si dice una volta, il primo che dice chi la fa. Vabbè, non voglio essere volgare, andiamo al terzo posto. Devo correre. Allora, la Corte dei Conti torna a indagare il comune di Salerno. La Procura regionale infatti ha aperto un'inchiesta sul caso di Raffaele Ciaraldi, dirigente municipale che per 10 anni, dicesi 10 anni, è stato il capo del settore dei sistemi informativi. Peccato che non avesse mai conseguito la laurea. È stato costretto a dimettersi dall'incarico, non ha mai conseguito la laurea in ingegneria elettronica, che era elemento necessario per ricoprire l'incarico apicale. Delle due l'una però: o non serviva un ingegnere laureato in ingegneria elettronica per quel lavoro, o decidiamo che la laurea in ingegneria elettronica non vale nulla. Secondo me è più la prima. Comunque ha partecipato anche al concorso per dirigente del servizio dei sistemi informativi del comune, che ha pure vinto. Ecco perché poi se ne sono accorti dopo 10 anni. Il danno erariale al comune di Salerno, visto che lui veniva pagato in media 85.000 euro all'anno di stipendio, per 10 anni fa circa 10 milioni di euro che il comune ha erogato in questi 10 anni, oltre agli 86.000 euro di stipendio base. Infatti ha beccato pure i premi di produzione. La cosa bellissima è come la maggioranza ha risposto all'opposizione che in comune a Salerno, che chiedeva conto di questa cosa. Ma com'è possibile che un dirigente dei sistemi informatici non si è mai laureato, per 10 anni lo paghiamo, ci costa 10 milioni di euro premi di produttività inclusa? Allora la risposta della maggioranza è stata questa. Ha detto la maggioranza: sì, era senza laurea, ma aveva una cultura da laureato. Bellissimo, con questo principio allora praticamente vai, aveva una cultura da laureato. E quello che è laureato e che ha una cultura da non laureato, cosa facciamo? Si aprono scenari interessanti in questo paese. Secondo posto, l'ATAC di Roma, non vogliamo sparare sulla Croce Rossa, ma ha speso in 5 anni 2 miliardi e 253 milioni nella municipalizzata di Roma per mezzi e investimenti, dove metà degli autobus non circola, per manutenzione. Senza gara, perché le gare a Roma sono solo quelle al circo e alle Olimpiadi, stiamo scoprendo. Allora, che cosa è successo? Stefano Esposito, l'assessore alla mobilità del comune, uno di quelli che si è dimesso, manda una lettera al presidente dell'autorità anticorruzione Cantone per segnalare il caso di certe consulenze legali. Allora, racconta Esposito, ha chiesto informazioni alla presidenza dell'ATAC su come gestiscono la direzione legale. Perché questo? L'ATAC ha, pensate, 21 avvocati dentro la municipalizzata dei trasporti di Roma. Ma quando deve istruire delle cause si rivolge a studi esterni, nel caso specifico uno a Milano, uno studio legale Boffoli, specializzato in diritto del lavoro, e poi uno a Roma, studio legale Marazza, attivo nel campo del diritto del lavoro. Perché l'ATAC risponde: è vero che abbiamo 21 avvocati, no? Che sono una enormità, ma solo 8 sono in grado di patrocinare in tribunale. Già ti chiedi che cosa fanno gli altri, gli altri 13, e poi di tutti questi 21 non ce n'è uno, non risultano presenti figure di esperti giuslavoristi e penalisti. Cioè, diritto del lavoro e diritto penale, che se tu devi fare l'avvocato all'ATAC, con quello che leggiamo non si capisce quale sia più importante, se il diritto del lavoro o il diritto penale, non sono presenti. Ci chiediamo: ma questi 21 avvocati in che cosa sono specializzati? In diritto internazionale? In diritto commerciale, all'ATAC, in diritto internazionale, non so, chiedo. Ah, bellissimo. Poi ti chiedi come fa l'ATAC a perdere tutti questi soldi. Traffico, il numero uno della classifica, l'imprenditore che si è messo in gioco, il caso virtuoso e poi il resto dei temi. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento Focus Economia. Ultimo, oggi sono sfinito. No, mi sta scrivendo anche un militare, comunque ha fatto il servizio alla base della Marina di la polveriera di Aulla, dice che le capre sono presenti anche lì per lo stesso motivo. Ragazzi, non so, adesso scopriamo pure lo scandalo delle capre. Comunque, andiamo al primo posto della nostra poco invidiabile classifica. And the winner is... la città di Bari, dove dal 1991 e dopo 20 anni di polemiche e rallentamenti si sono chiusi a settembre del 2014 i lavori di restauro dell'auditorium Nino Rota. Bene, bella notizia, no, perché si sono chiusi a settembre 2014, ma mica hanno aperto l'auditorium nel frattempo, sono due cose distinte, attenzione, nessi anche causali. Lo denuncia Nuccio Altieri, ex vicepresidente della provincia. È costato 8 milioni di euro. A giugno scorso il ministro pubblico istruzione Giannini ha detto che l'ultimo stadio di avanzamento dei lavori era in via di pagamento, era solo di natura gestionale. Poi il conservatore non ha fatto sapere più niente, nei prossimi giorni chiederà al sindaco. Comunque 8 milioni di euro per rimettere a posto un auditorium che è pronto dal settembre 2014 e non riesce ad aprire. Complimenti anche alla città di Bari. Bene, bene, bene. Allora, tiriamoci un po' su di morale. Matteo Lai, amministratore delegato di Empatica, buonasera. Pronto? Buongiorno. Buonasera. Lei fa Empatica e mi dice buongiorno, io dico buonasera, un po' di empatia, Lai. Buonasera. Allora, senta, io non ho, abbiamo oggi una puntata densissima, poi ho Giulio Sapelli, vorrei sapere che cosa avete, lei è ospite come sempre facciamo venerdì, come testimonianza di imprenditori che in piena crisi si sono rimboccate le maniche e hanno lanciato una nuova attività. Mi dica che cosa avete sviluppato e poi le prometto che ne parleremo anche lunedì. Cosa avete creato? Facciamo due prodotti, uno facciamo dei prodotti medicali che vengono usati medicali per la ricerca in vari settori, neurologici soprattutto. Il nostro primo prodotto è usato, che si chiama E4, viene usato in tutti i maggiori ospedali, università, centri di ricerca, case farmaceutiche, alla NASA, per fare ricerca sul comportamento umano. Quindi vogliono capire cosa succede alle persone. Cioè sono braccialetti che uno mette e registrano i segnali, insomma, per la ricerca clinica, quelli fisiologici, no? Sì, esatto. Questo è il nostro primo prodotto. Il secondo è una versione simile, però fatta per i consumatori, che si occupa soprattutto per le persone che soffrono di epilessia, autismo e altre condizioni. E quello che fa è monitorare lo stress autonomico, il sonno, l'attività fisica e poi fa anche il riconoscimento degli attacchi epilettici. Molto importante, sia per gli autisti. Ricordo che Radio 24, per inciso, continua con l'iniziativa Anche Noi Disabili. Scrivete all'indirizzo di casella postale elettronica Anche Noi Disabili è radio24.it. Mi dica solo una cosa, lunedì ne parliamo diffusamente, quanti anni ha lei e quanti anni hanno i suoi soci? Io ne ho 33, i miei soci ne hanno 34 e 31. Oh, questo lo dico ai giovani in ascolto, così, ascoltate anche la prima parte della classifica, però non esiste solo quell'Italia lì, esiste anche un'Italia migliore, non in maniera manichea, ma non esiste solo quell'Italia lì. Lai, le do appuntamento a lunedì prossimo, intanto buon fine settimana, così ci racconta esattamente come siete riusciti a lanciarla, chi vi ha aiutato e chi non vi ha aiutato, sia nel finanziamento che nello sviluppo del progetto. Grazie anche a Matteo Lai, do rapidamente la borsa, oggi ha chiuso con una variazione di 0,00, Milano, Parigi più 0,24, Francoforte più 0,46, Londra meno 0,54, non c'è veramente notizia neanche su Telecom, al di là di quello che abbiamo ricordato quanto a quota di Javier e Neil, Finmeccanica meno 2,40, Intesa meno 1,50, Eni meno 1,1, Tenaris meno 0,90, invece Unipolsai più 2,5, Ferragamo più 1,90 come Exor, l'1,5 lo guadagna il Banco Popolare, l'1,30 Enel e A2A, ma anche Unipol. Adesso c'è il GR24 e poi commentiamo i dati della settimana con l'uccellaccio Giulio Sapelli, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Digital Radio Flash, Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. il suono perfetto. Anche Radio 24 è in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracomitalia, anche in cloud. 183 giorni, 141 padiglioni, milioni di visitatori da tutto il mondo. Segui lo speciale di Radio 24 su Expo Milano 2015 con i nostri inviati e le voci dei protagonisti. Una diretta di 2 ore per vivere da vicino la giornata di chiusura dell'Esposizione Universale e tirare le somme dei 6 mesi più discussi del 2015. Sabato 31 dalle 18 alle 20 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. In diretta con Focus Economia. E allora, come annunciato, facciamo, come spesso ci capita di fare, il punto della settimana. Settimana che partiamo dalle notizie più fresche, e quindi il dato sulla disoccupazione di oggi, che è un buon dato sempre a fronte di una disoccupazione altissima, nel senso che la disoccupazione è scesa a settembre all'11,8%, ai minimi dal 2013. Fa notare l'Istat che ci sono 264.000 persone in meno nell'ultimo anno che stanno cercando lavoro, quindi 264.000 persone che hanno trovato lavoro, meno 8%, anche quella giovanile, pur restando ancora più alta al 40,5%, è in leggero calo rispetto al 40,7% di agosto. Aumentano però un po' gli inattivi, cioè quelli che né lavorano né studiano. Ancora, per quello che riguarda dell'Istat, ci fa sapere che in questi ultimi 12 mesi sono aumentati di 113.000 gli assunti a tempo indeterminato. L'inflazione è leggermente in rialzo, ma sempre allo 0,3%, soprattutto cresce per cibo e servizi ricreativi e culturali. Gli alimentari non lavorati più 4,2%. Comunque la media è ancora un'inflazione sostanzialmente inesistente, allo 0,3%. E questi sono gli ultimi dati. In una settimana in cui abbiamo visto di tutto, anche dati positivi, va detto, e di questo vorrei ragionare con un ospite, un volatile, che è tornato a trovarci. Volatile non è un insulto, in questo caso è un uccellaccio che aleggia su di noi. Professor Giulio Stapelli, ordinario di storia economica alla Statale di Milano, buonasera. Buonasera carissimo Barisoni. Allora, la vedo dall'alto, sì. Bene, almeno lei mi vede, perché in radio diciamo gli altri mi ascoltano. Sì, io sì, io la vedo, certo. Allora, dicevo, oltre ai dati di oggi sulla disoccupazione e l'inflazione, abbiamo avuto una settimana in cui la fiducia dei consumatori, sempre misurata dall'Istat con serie storiche, ha toccato, per quello che riguarda addirittura i consumatori, i massimi dal 2003, per quello che riguarda le imprese i massimi dal 2007, ma le imprese del commercio, mi interessa particolarmente perché il commercio è stato uno dei settori più massacrati da questa crisi, anche qui siamo arrivati ai massimi della fiducia delle imprese dal 2003. Infine, questo diciamo nell'alveo complessivo di dati che, per quanto gli ascoltatori poi dicano, non li vediamo ancora. A noi sembra che un elemento, e anche le revisioni sul PIL, di maggiore positività nell'economia si stia un po' rafforzando, però vorrei chiedere all'uccellaccio. Beh, l'uccellaccio le dice che ha ragione, perché sono dei timidi inizi, non direi di una ripresa, ma di una fine di una caduta e di rimbalzi che con una buona politica economica si possono trasformare in ripresa. In fondo vuol dire che, diciamo così, la parte più sensibile della nostra economia, che come lei giustamente ha sottolineato è quella più legata alla domanda interna, al commercio, comincia a riscontrare dei segnali che vanno in senso opposto alla caduta, che forse ci lasciamo lasciata alle spalle la caduta. Questo non vuol dire che possiamo cominciare a camminare con gli stivali delle sette leghe. Però la cosa che ci ha impressionato questa settimana, come anche annotazione diciamo storica, se mi passa il termine, è stata anche la settimana in cui prima HTZ, poi Botta sei mesi, sono andati anche in Italia, quindi titoli di Stato, a rendimento negativo. Vuol dire che chi presta soldi a sei mesi allo Stato italiano accetta di avere un valore nominale più basso dopo sei mesi, e siamo comunque a rendimenti vicino allo zero anche per i BTP a 5 anni. Ora è vero che altri paesi, tipicamente la Germania, questi rendimenti negativi li hanno da anni, però era solo il 2010 e poi il 2011, fine 2011, praticamente 4 anni fa quasi esatti, quando lo spread italiano viaggiava sopra i 500 punti, ci si interrogava se l'Italia avrebbe potuto reggere una pressione del genere, i rendimenti della curva si erano invertiti, quindi rendeva di più un BTP a 5 anni invece di 1 a 10, perché nessuno si fidava a investire sul debito italiano a 10 anni, molti speculavano che dopo la Grecia, Portogallo, Spagna sarebbe toccato all'Italia, insomma è vero che in 4 anni può cambiare tante cose, ma non è che in questi 4 anni siamo cresciuti in maniera, anzi abbiamo beccato altri anni di recessione, disoccupazione in aumento, eppure siamo passati dalle stalle, in questo caso, cioè dal rischio default, rischio non pagamento del debito, alle stelle, cioè ai rendimenti negativi. Sì, però io non le chiamerei le stelle, le chiamerei dalle stalle alle eclissi, cioè siamo passati da un momento di discesa, quindi di una recessione profonda, adesso siamo in una stagnazione, stiamo fermi, e il dato caratteristico della stagnazione è la deflazione, il crollo dei prezzi, che è alimentato anche da questa politica dei rendimenti negativi. Quindi c'è il rischio di un avvitarsi, c'è un rischio che non usciamo dalla deflazione e che entriamo in quella che chiamiamo in modo un po' elittico la sindrome giapponese, cioè quello che colpì il Giappone per 10 anni. A partire dal 1885, 10-15 anni. 1985. Sì, 1985, scusi, invecchio, anche le mie cellule grigie hanno le loro defiance, e quindi c'è il rischio che questa ripresa non sia così forte, quindi bisogna fare politica economica più decisa. Il governo ha cominciato a farlo, ma è troppo timida, ecco. Bisogna fare qualcosa di più degli 80 euro che vanno nel senso giusto, così come anche va nel senso giusto il Job Act, soprattutto incentivando i contratti a tempo indeterminato e a tutele crescenti, però è molto pericoloso questa questione, anche perché è questo il problema per cui molti risparmiatori tedeschi sono molto preoccupati, come lei comprende molto bene, avere rendimenti decrescenti vuol dire non valorizzare il risparmio e quindi di restringere la domanda interna. Ma secondo lei c'è il rischio della cosiddetta trappola della liquidità, e cioè che Mario Draghi, la Banca Centrale Europea stanno pompando liquidità in vari modi, il principale è il quantitative easing, ma non c'è solo quello, ma se dai tanta acqua al cavallo ma questo non vuole bere, hai sprecato acqua senza effetto, cioè la trappola della liquidità è che poi è un circolo vizioso invece che virtuoso. Sì, sono perfettamente con lei, soprattutto sono d'accordo con lei, soprattutto perché il quantitative easing europeo non è quantitative easing americano. Lei so che l'ha citato in alcune sue trasmissioni, la famosa frase che disse Friedman, helicopter money, cioè bisogna buttare il denaro dall'elicottero, il denaro deve andare non tanto alle banche, ma deve soprattutto andare alle famiglie e alle imprese. Questo lo statuto della Banca Centrale Europea ce lo impedisce, e quindi naturalmente c'è il rischio che ci sia una nuova bolla e che non si raggiunga l'effetto del quantitative easing, cioè c'è solo un gonfiamento dei patrimoni bancari e poi dopo questi però non trasmettano il capitale, quindi c'è un eccesso di capitale inutilizzato, e come sappiamo bene il capitale inutilizzato costa, e mentre costa deprime la domanda, quindi c'è veramente questo rischio della trappola dell'utilità. Allora, dopo il traffico vorrei commentare un'altra notizia della settimana, anche se chiaramente non è che si sia sviluppata questa settimana, visto che parlavamo di economia europea, Ma insomma, con la dichiarazione di Janet Yellen l'altro ieri sull'aumento dei tassi che arriverà insomma entro quest'anno, se abbiamo ben capito, l'America conferma che è ripartita in maniera fortissima, ha dei dati incredibili sui sussidi alla disoccupazione, mai così bassi nella sua storia. Dopo il traffico vorrei capire, così come 4 anni fa ci interrogavamo, reggerà o no il debito italiano, adesso abbiamo rendimenti negativi, sempre 4 anni fa, ma anche 3 anni fa, 2 anni fa, il mantra recitava: il futuro delle nostre esportazioni, della nostra crescita, si chiama BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Ma che ne è stato? Perché a me sembra che il futuro delle nostre esportazioni, della nostra crescita, si chiami di nuovo variabile atlantica, quindi Stati Uniti, Canada, magari anche un po' di Messico e poi la componente europea. Dopo il traffico. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia, sempre in collegamento etereo, visto che vola nell'alto dei cieli con l'uccellaccio. Che lo dico agli ascoltatori che scrivono, non è un gufo, il gufo ce l'abbiamo, il sonoro l'abbiamo utilizzato ben prima che Renzi lo usasse come categoria politica, e non lo usiamo infatti più perché poi è diventato un po' inflazionato. No, è un uccellaccio, non è neanche un avvoltoio, vedo che alcuni scrivono, è un uccellaccio e basta. Se qualcuno, visto che celebriamo, ahimè, i 40 anni della morte di Pasolini, da questo punto di vista uno può anche ricordare uccelli, uccellacci. Comunque, professor Sapelli, dicevo prima dell'interruzione, insomma, qui fino a un anno fa ragionavamo, un anno e mezzo fa, di BRICS, e mi sembra che la crescita che ci si prospetta sia quella classica atlantica europea. Sì, lei sa molto bene che io sono sempre stato un feroce avversario di questa teoria che in termine tecnico si chiamava del decoupling, cioè che si poteva crescere senza gli Stati Uniti. Ora ripeto fino all'ossessione: se gli Stati Uniti hanno il raffreddore, il mondo ha la broncopolmonite, non c'è via senza la locomotiva americana, e questo è stato dimostrato dal fatto che la locomotiva americana, con due mosse del cavallo di natura keynesiana, cioè finanziamenti dello Stato alle imprese, questo è stato molto importante, poi soprattutto quello che abbiamo chiamato prima nella nostra conversazione precedente, helicopter money, cioè far arrivare il denaro nelle tasche dei contribuenti con forte detassazione e con aumento della spesa pubblica, sottolineo, e diminuzione dell'inefficienza e dello spreco pubblico, e sono ripartiti alla grande, ma come era inevitabile. E poi dopo, come tutti sanno molto bene, invece i BRICS sono oggi in grave difficoltà perché la loro economia, e qui stava il loro errore di politica economica nel commercio internazionale, purtroppo si era modellata su quell'effimero fenomeno che è stata la dilagante ma gracile e tragica crescita cinese, che adesso sta finendo, sì, trascinando molti, con sé il crollo dei prezzi delle commodity. Sì, molti fanno notare che però, insomma, dire che fine della crescita, la Cina crescerà del 6,8 e non più del 7,5, però insomma ha un problema interno nella creazione di un mercato interno di consumi. Scusi caro amico Barisoni, quando un paese di 1.600.000.000 di uomini ha più o meno lo stesso PIL di un paese di 120 milioni di uomini come il Giappone, se lei lo vuole chiamare crescita, la chiami pure crescita, ma rimane sempre un sottosviluppo che appare non come tale perché c'è l'illusione demografica. Andiamo a vedere quanto cresce il PIL per capita, una inezia. Quindi parliamo di un'economia comunista che non può crescere, che adesso è arrivato al punto di tragica situazione. Il dramma mondiale è che gli inglesi si fidano e pensano di ricreare la loro grande potenza mondiale alleandosi con una potenza, quella cinese, che invece è allo stremo. E questo non fa altro che dimostrare il disorientamento tragico in cui è caduto l'Occidente quando ci si vuole dividere dagli Stati Uniti. Lei si riferisce alle ultime mosse, diciamo, britanniche di canale preferenziale con la Cina, anche, diciamo, a scapito di quello con gli Stati Uniti, quello che lei in un articolo ha chiamato il neodisegno imperiale cino-britannico. Sì, che è una cosa che non sta ricorda in anche il risico un po', però insomma, che non sta né in cielo né in terra, ma se lo vede lei la grandezza dell'impero britannico con l'impero di mezzo dei cinesi che sono appena usciti da uno stadio di sottosviluppo senza fine, ma non scherziamo, ecco, questa è un'altra illusione come quella che abbiamo avuto dei BRICS, mentre invece il mondo atlantico dovrebbe fare blocco e puntare semmai sull'Africa, che è un paese che si può molto più controllare, che ha energia e che noi europei con un neocolonialismo intellettuale ed economico possiamo di nuovo condurre per mano per una crescita sostenuta ed equilibrata, se ce la facciamo a sconfiggere le guerre settarie terribili che in quel continente si svolgono. Casomai bisogna guardare all'Africa, non bisogna guardare a questo. Beh, la Cina l'Africa ha guardato negli ultimi 15 anni e si è comprata pezzi d'Africa interi la Cina, però vabbè, ma che cosa ha fatto? Non ha prodotto un ette di sviluppo, perché ha agito importando il suo lavoro forzato. Certo. La Cina ha solo fatto dei danni in Africa ed è la prova di quello che ci si aspetta se noi ci alleiamo con la Cina. Senta, adesso mi rendo conto che il volo sia un po' pindarico, però questo è lo scenario, era un po' che non l'avevamo ospite, anche sul fronte internazionale, quindi prepotentemente in politica economica, non in politica estera, cioè stranamente quando l'America è più debole, a mio avviso, nella politica estera, e vedi che Putin sta uscendo, non dico come un gigante, ma quasi nella gestione siriana, complice la debolezza estrema della politica estera di Obama, l'America però si ripresenta diciamo, come l'unica potenza economica in grado di, diciamo, di guidare quello che resta della crescita, non certo grazie ai BRICS. Non è un po' strano questo in una battuta, Sapelli, che nel momento in cui sei così debole nella politica estera, che prendi lezioni anche da Putin, però rappresenti di nuovo la locomotiva a livello economico? In un modo rapidissimo, vede, la politica economica, nella politica economica si può anche vivere dei vantaggi accumulati storicamente, quindi della spinta enorme che l'America ha con sé. La politica estera invece è un altro disegno culturale che bisogna sempre esercitare e rinnovare. Dopo la fine politica di Kissinger, l'America ha perso completamente la bussola, mentre i russi hanno saputo conservare nel loro degrado economico quella grande intellettualità diplomatica che deriva da Gromyko, passa per Ponomariov e arriva fino a Lavrov, che è un grandissimo diplomatico che conosce molto bene il Medio Oriente. Hanno avuto anche la Albright, che era della stessa scuola di Kissinger, quindi un'ebrea. Sono d'accordo, non a caso è una esponente di quella grandissima tradizione intellettuale della cultura ebraica che nella politica estera ha dato il meglio di sé, ma è stata, ahimè, soltanto una parentesi. Quindi quello che decido in ultima istanza sia in economia che in politica estera è la cultura, e in politica estera gli americani sono caduti in un baratro senza fine dal punto di vista culturale. Ora, visto che parliamo di cultura, di baratro culturale, chiudiamo sull'Italia. Mi rendo conto che il volo, oltre che pindarico, sia quasi provinciale, però questa è stata anche la settimana in cui, dopo l'ANAS di due settimane fa, ci siamo beccati lo scandalo, cito in ordine sparso, dei tangenti a Palermo ieri e l'implicazione anche del presidente delle Ferrovie dello Stato. Abbiamo avuto, vabbè, lasciamo stare gli scontrini di Marino, ma anche oggi inchieste e indagini e arresti per quello che riguarda l'Euro SPA. Cantone che dice Milano ha gli anticorpi, detonata essere la capitale morale, Roma no, Marino appunto che sta finendo come stiamo raccontando da ieri sera. Lei che ha scritto un libro durante Tangentopoli che si chiamava Cleptocrazia, se non ricordo male, che sì, ho anche letto, certo. Vede che ogni tanto la leggo. Ringrazio. Ecco, e che ha studiato nel profondo le origini di Tangentopoli. È d'accordo con Cantone, ma soprattutto c'è di nuovo una questione morale, o stanno emergendo tutti questi scandali perché sta finendo l'acqua nell'acquario in cui si muoveva la corruzione, ci sono meno soldi e paradossalmente emergono perché ci sono più controlli? È una domanda molto interessante e cerco di rispondere telegraficamente. Innanzitutto vorrei non esprimermi sulla dichiarazione che ha fatto lo stimatissimo dottor Cantone, perché ritengo che un uomo nelle sue posizioni non deve fare dichiarazioni di quel tipo, non deve assolutamente parlare, perché se non è, perché se così fa non è più una parte terza. Quindi credo che sia stato grave che abbia parlato e che abbia fatto quella dichiarazione. Ma qui quindi passo oltre, perché in alcuni momenti è visibile, e questo è soprattutto molto interessante in paesi dove c'è l'obbligatorietà dell'azione penale. Naturalmente è visibile per tanti motivi. In primo luogo, dato che in tutto il mondo c'è un contrasto tra potere politico e magistratura, e tra potere politico e tra potere giudiziario e ordine economico, come sta accadendo adesso negli Stati Uniti, o come dimostra anche il caso appunto della Volkswagen, come per quanto riguarda, diciamo così, non tanto la corruzione ma forme di non rispetto della legge. E il problema oggi, sono d'accordo con lei, è che le risorse stanno scendendo, i controlli sono aumentati, ma soprattutto diciamo così, è aumentato a dismisura il potere della magistratura, che da ordine si è trasformato appunto in un potere. Penso che l'Italia sia molto più sana di quanto non appaia da queste inchieste, che la classe politica sia molto meno corrotta e che la classe economica sia molto meno corrotta di quanto non si dica. Grazie, torni a volare via, è inafferrabile Sapelli, perché quando pensi di conoscere la sua risposta te ne dà un'altra. Va bene così, si chiamavano liberi spiriti una volta. Spiriteggi liberamente nell'aria, Sapelli. Grazie anche a Giulio Sapelli, appunto, docente di storia economica alla Statale di Milano. Sono veramente contento di essere ritornato da lei e spero di farlo presto, non mi lasci troppo nell'empireo. Allora, grazie anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi, come sempre, per l'assistenza in redazione questa settimana. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Radio 24, la passione si sente.